Le mie passeggiate di quell'autunno furono ancora più piacevoli perché le facevo dopo lunghe ore trascorse su un libro. Quando ero stanco d'aver letto tutta la mattina in salotto, mi gettavo un plaid sulle spalle e uscivo. Il mio corpo, costretto per tanto tempo all'immobilità, ma che stando fermo si era caricato di animazione e di velocità accumulate, aveva bisogno, come una trottola lasciata andare, di sfogarle in tutte le direzioni. I muri delle case, la siepe di Tansonville, gli alberi del bosco di Roussainville, i cespugli a ridosso di Montjouvain ricevevano i miei colpi d'ombrello o di bastone, sentivano esclamazioni gioiose che altro non erano, gli uni e le altre, che idee confuse che mi esaltavano e che non avevano attinto la quiete nella luce, avendo preferito, a una lenta e difficile chiarificazione, il piacere di una più facile scorciatoia verso uno sbocco immediato. La maggior parte delle cosiddette manifestazioni esteriori di quello che abbiamo provato servono solo a sbarazzarcene, facendole uscire da noi in una forma indistinta che non ci insegna a conoscerle. Quando tento di fare l'inventario di quel che devo alla parte di Meseglise, le umili scoperte di cui fu l'occasionale cornice o la necessaria ispiratrice, mi ricordo che fu in quell'autunno, durante una di quelle passeggiate nei pressi della scarpata ricoperta di cespugli che protegge Montjouvain, che fui colpito per la prima volta da questo contrasto fra le nostre impressioni e la loro espressione abituale. Dopo un'ora di pioggia e di vento, contro i quali avevo lottato allegramente, mentre giungevo sulla riva dello stagno di Montjouvain, davanti a una piccola baracca ricoperta di tegole, dove il giardiniere di Vinteuil custodiva i suoi attrezzi da giardinaggio, il sole era da poco riapparso e le sue dorature, lavate dall'acquazzone, rilucevano a nuovo nel cielo, sugli alberi, sui muri della baracca, sul suo tetto di tegole ancora bagnato, in cima al quale passeggiava una gallina. Il vento, soffiando, piegava orizzontalmente le erbe selvatiche spuntate tra le crepe del muro, e le piume lanuginose della gallina, le une e le altre, si lasciavano carezzare a piacimento dal suo soffio per tutta la loro lunghezza, con l'abbandono delle cose inerti e leggere. Il tetto di tegole formava nello stagno, che il sole aveva reso di nuovo specchiante, una striatura rosa, alla quale prima non avevo mai prestato attenzione. E vedendo sull'acqua e sulla superficie del muro un pallido sorriso rispondere al sorriso del cielo, esclamai, in preda all'entusiasmo, brandendo il mio ombrello arrotolato, «Accidenti, accidenti, accidenti!» Ma sentii subito che sarebbe stato mio dovere non accontentarmi di quelle parole opache e di tentare di vedere più chiaro nella mia ebbrezza. E proprio in quel momento, grazie a un contadino che passava con l'aria già abbastanza ingrugnata e ancor peggio quando rischiò di prendersi un'ombrellata in faccia, che rispose con freddezza al mio «Bel tempo, non è vero? Una bella camminata fa bene?» appresi che le stesse emozioni non si producono simultaneamente in tutte le persone secondo un ordine prestabilito. Più tardi, ogni volta che una lettura un poco prolungata mi aveva messo voglia di chiacchierare, il compagno al quale ero ansioso di rivolgere la parola aveva appena finito di apprezzare il piacere della conversazione e ora desiderava essere lasciato in pace a leggere. E se, dopo aver pensato ai miei con tenerezza, avevo appena preso le decisioni più sagge e più appropriate per farli contenti, loro invece avevano dedicato lo stesso tempo a rivangare un peccatuccio di cui m'ero scordato e che mi rimproveravano severamente proprio nel momento in cui mi slanciavo verso di loro per abbracciarli. A volte, all'esaltazione che mi dava la solitudine, se ne aggiungeva un'altra che non sapevo distinguere esattamente dalla prima, causata dal desiderio di vedere comparire davanti a me una contadina da poter stringere tra le braccia. Nato bruscamente e senza aver avuto il tempo di rapportarlo esattamente alla sua causa, in mezzo a pensieri del tutto diversi, il piacere che lo accompagnava mi sembrava solo di un grado superiore a quello che quei pensieri mi procuravano. Attribuivo un maggior pregio a tutto quanto mi occupava la mente in quel momento, al riflesso rosa del tetto di tegole, alle erbe selvatiche, al villaggio di Roussainville, dove da un pezzo desideravo andare, agli alberi del suo bosco, al campanile della sua chiesa, per quell'emozione nuova che me li faceva apparire più desiderabili solo perché credevo che fossero loro a provocarla e che sembrava non voler altro se non condurmi più rapidamente verso di loro, quando gonfiava la mia vela di una brezza potente, sconosciuta e propizia. Ma se il desiderio di veder comparire una donna aggiungeva per me qualcosa di più esaltante agli incanti della natura, gli incanti della natura, per contro, dilatavano quello che l'incanto della donna avrebbe avuto di troppo riduttivo. Mi sembrava che la bellezza degli alberi fosse anche la sua bellezza e che l'anima di quegli orizzonti, del villaggio di Roussainville, dei libri che leggevo quell'anno, sarebbe stato il suo bacio a rivelarmela. E la mia immaginazione, esaltandosi al contatto con la mia sensualità, e la sensualità dilagando in tutti i domini della mia immaginazione, facevano sì che il mio desiderio non avesse più limiti. Anche perché, come avviene in quei momenti di fantasticheria, quando, immersi nella natura, sospesa l'azione dell'abitudine, messe da parte le nostre nozioni astratte delle cose, noi crediamo con fede profonda nell'originalità, nella vita individuale del luogo in cui ci troviamo, la passante invocata dal mio desiderio mi pareva rappresentare non un esemplare qualsiasi di un tipo generale, la donna, ma un prodotto necessario e naturale di quella terra. A quel tempo, infatti, tutto ciò che era altro da me, la terra e gli esseri viventi, mi appariva più prezioso, più importante, dotato di un'esistenza più reale di quanto non sembrasse alle persone adulte. E fra terra ed esseri viventi non facevo distinzione. Desideravo una contadina di Meseglise o di Roussainville, una pescatrice di Balbec, come desideravo Meseglise e Balbec. Il piacere che mi potevano dare mi sarebbe parso meno autentico, non ci avrei più creduto se ne avessi modificato a mio arbitrio le condizioni. Conoscere a Parigi una pescatrice di Balbec o una contadina di Meseglise sarebbe stato come ricevere in dono delle conchiglie che non avevo visto io sulla spiaggia, una felce che non avevo trovato io nei boschi. Sarebbe stato come sottrarre al piacere che mi avrebbe dato la donna tutti quelli in cui l'aveva avvolta la mia immaginazione. Ma vagare così per i boschi di Roussainville senza una contadina da baciare voleva dire non conoscere di quei boschi il tesoro nascosto, la bellezza profonda. Quella fanciulla che non vedevo se non avvolta nel fogliame era lei stessa per me come una pianta di quella terra, solo di una specie più elevata delle altre e dotata di una struttura che permetteva un contatto più ravvicinato col sapore profondo del paese. Mi era tanto più facile crederlo, e che le carezze con le quali mi avrebbe fatto giungere fin là sarebbero state a loro volta di una qualità particolare e tali che nessun'altra se non lei avrebbe potuto farmene conoscere il piacere, in quanto ero e sarei stato ancora per molto in quell'età in cui non si è ancora arrivati ad astrarre il piacere del possesso delle diverse donne con le quali lo si è gustato, a ridurlo a una nozione generale che da un certo momento in poi induce a considerarle come gli strumenti intercambiabili di un piacere sempre identico. Non esiste nemmeno isolato, separato e concepito nella mente, come il fine che si persegue avvicinandosi a una donna, come la causa del turbamento preliminare che ci assale. A malapena vi si pensa come a un piacere che si avrà. Lo si chiama piuttosto il suo fascino particolare, perché non si pensa a se stessi, si pensa soltanto a uscire da se stessi. Oscuramente atteso, immanente e nascosto, nel momento in cui si attua, porta soltanto a un tale parossismo gli altri piaceri suscitati in noi dai dolci sguardi, dai baci di colei che ci sta accanto, che appare soprattutto a noi stessi come una sorta di slancio della nostra gratitudine per la bontà di cuore della nostra compagna e per la toccante predilezione che ci accorda e che noi misuriamo dalle delizie, dalla felicità di cui ci colma. Ahimè, invano imploravo il torrione di Roussainville e invano gli chiedevo di far venire accanto a me qualche creatura del suo villaggio, come al solo confidente dei miei primi desideri, quando, nella nostra casa di Combray, nello studiolo in alto, odoroso di iris, vedevo solo la sua torre nel riquadro della finestra socchiusa, mentre, con le eroiche esitazioni del viaggiatore che si accinge a un'esplorazione, o del disperato che si toglie la vita, tremando di emozione, aprivo dentro di me una strada sconosciuta e che credevo mortale, fino al momento in cui una traccia naturale, come quella di una chiocciola, si aggiungeva alle foglie di ribes selvatico che si protendevano sino a me. Invano ora lo supplicavo. Invano, tenendo quella distesa nel mio campo visivo, la drenavo con sguardi che avrebbero voluto riportarne una donna. Potevo spingermi anche fino al portale di Saint-André-des-Champs, ma non vi si trovava mai la contadina che non avrei mancato di incontrare se fossi stato in compagnia del nonno e quindi nell'impossibilità di attaccare discorso con lei. Fissavo indefinitamente il tronco di un albero lontano, dietro al quale sarebbe comparsa e venuta sino a me. L'orizzonte che scrutavo restava deserto, scendeva la sera. Senza speranza, la mia attenzione si aggrappava a quel suolo sterile, a quella terra inaridita, come per aspirarne le creature cui potevano dare il ricetto. Ed era non più con allegria ma con rabbia che percuotevo gli alberi del bosco di Roussainville, dai quali non uscivano più esseri viventi che se fossero stati alberi dipinti sulla tela d'un paesaggio. Quando, non potendo rassegnarmi a rientrare, prima d'aver stretto fra le braccia la donna che avevo tanto desiderato, ero tuttavia costretto a riprendere la strada per Combray, confessando a me stesso che era sempre meno probabile che il caso avrebbe potuto metterla sul mio cammino. E poi, se l'avessi trovata, avrei mai osato rivolgerle la parola? Pensavo che mi avrebbe preso per un pazzo. Avevo smesso di credere che i desideri che concepivo durante quelle passeggiate e che non si realizzavano mai potessero essere condivisi da altri esseri umani, potessero essere veri al di fuori di me. Non mi apparivano altro che creazioni puramente soggettive, impotenti e illusorie del mio temperamento. Non avevano più alcun legame con la natura, con la realtà, che subito perdeva ogni incanto e ogni significato, riducendosi a una cornice convenzionale rispetto alla mia vita, come lo è per l'intreccio di un romanzo, il vagone sul cui sedile il viaggiatore lo sta leggendo per ammazzare il tempo. E da un'impressione provata sempre nei pressi di Montjouvain, qualche anno più tardi, impressione allora rimasta oscura, che forse è nata in me l'idea che mi sono fatta del sadismo. Si vedrà più tardi che per tutt'altre ragioni il ricordo di quell'impressione doveva giocare un ruolo importante nella mia vita. Faceva molto caldo. I miei, che avevano dovuto assentarsi per tutta la giornata, mi avevano concesso di rientrare quando volevo, anche tardi. E essendomi spinto fino allo stagno di Montjouvain, dove amavo rivedere i riflessi del tetto di tegole, mi ero disteso all'ombra e mi ero addormentato tra i cespugli del pendio che domina la casa, nello stesso punto dove una volta ero rimasto in attesa di mio padre, il giorno che era andato a trovare Vanteuil. Quando mi svegliai, era quasi buio. Feci per alzarmi, ma vidi Mademoiselle Vanteuil, almeno per quanto mi fu possibile riconoscerla, perché non l'avevo vista spesso a Combray, e solo quando era ancora una bambina, mentre adesso cominciava ad essere una ragazza, che probabilmente era appena rientrata di fronte a me, a pochi centimetri da me, nella stessa stanza dove suo padre aveva ricevuto il mio e che lei aveva trasformato nel suo salottino personale. La finestra era socchiusa, la lampada accesa. Vedevo ogni suo movimento senza che lei mi vedesse. Ma se me ne fossi andato, avrei fatto rumore tra i cespugli, lei mi avrebbe sentito e avrebbe potuto pensare che mi fossi nascosto là per spiarla. Era in lutto stretto perché suo padre era morto da poco. Noi non eravamo andati a farle visita, la mamma non aveva voluto, in nome di una virtù che sola in lei limitava le manifestazioni di bontà, il pudore. Ma la compiangeva profondamente. La mamma ricordava la triste fine dell'esistenza di Vanteuil. Prima tutta assorbita dalle cure quasi di madre e di governante che aveva dedicato alla figlia. Poi, dalle sofferenze che questa gli aveva procurato, rivedeva il volto torturato che il vecchio aveva sempre avuto negli ultimi tempi. Sapeva che aveva rinunciato per sempre a trascrivere in bella copia tutte le sue opere degli ultimi anni. Povere composizioni di un vecchio professore di pianoforte, di un anziano organista di paese che noi immaginavamo non avessero alcun valore in sé, ma che non disprezzavamo perché ne avevano tanto per lui ed erano state la sua ragione di vita prima che le sacrificasse alla figlia e che per la maggior parte nemmeno annotate, conservate solo nella sua memoria, alcune appuntate su fogli sparsi illeggibili, sarebbero rimaste ignote. La mamma pensava anche a quell'altra rinuncia ancora più crudele a cui Vanthei era stato costretto. La rinuncia a un avvenire di felicità onesta e rispettata per sua figlia. Quando rievocava tutto il supremo sconforto dell'anziano maestro di piano delle mie zie, provava un dolore sincero e pensava con sgomento a quello ben altrimenti amaro che doveva provare Mademoiselle Vanthei, unito al rimorso di avere praticamente ucciso suo padre. Povero Vanthei, diceva, ha vissuto ed è morto per la figlia, senza aver ricevuto alcun compenso. Lo riceverà mai dopo la morte, e in che forma? Non gli potrebbe venire che da lei. In fondo al salotto di Mademoiselle Vanthei, sul caminetto, era posato un piccolo ritratto del padre, che lei si affrettò a prendere in mano appena le giunse dalla strada il rumore di una carrozza. Poi si distese su un divano e accostò a sé un tavolino sul quale pose il ritratto, come una volta Vanthei aveva disposto accanto a sé il brano che avrebbe desiderato fare ascoltare ai miei genitori. Poco dopo entrò la sua amica. Mademoiselle Vanthei la ricevette senza alzarsi, le mani incrociate dietro la testa, e si spostò sul lato opposto del divano come per farle posto. Ma subito dopo avvertì che in quel modo poteva dare l'impressione di voler imporre all'amica un atteggiamento che le era forse sgradito. Pensò che l'amica avrebbe forse preferito starsene lontana da lei su una sedia. Si sentì indiscreta, la delicatezza del suo animo se ne allarmò. Occupando di nuovo tutto il posto sul divano, chiuse gli occhi e si mise a sbadigliare, per significare che la voglia di dormire era la sola ragione per cui si era sdraiata. Malgrado la familiarità rude e autoritaria che usava con la sua compagna, io potevo riconoscere in lei i gesti ossequiosi e reticenti, gli scrupoli improvvisi del padre. Subito dopo si alzò, finse di voler chiudere le imposte e di non riuscirci. «Lascia tutto aperto, caldo», disse l'amica. «Ma è seccante, ci vedranno», rispose Mademoiselle Vanthei. Ma immaginò senza dubbio che l'amica avrebbe pensato che lei avesse pronunciato quelle parole solo per provocarla a rispondere con certe altre che in effetti aveva voglia di sentirsi dire, ma per discrezione voleva lasciare a lei l'iniziativa di pronunciarle. Così il suo sguardo, che io non potevo distinguere, dovette assumere l'espressione che piaceva tanto a mia nonna, mentre aggiungeva con vivacità: «Quando dico ci vedranno, voglio dire ci vedranno leggere. È seccante pensare che degli occhi ci vedano, qualunque cosa, anche insignificante, si faccia». Per generosità istintiva e involontaria gentilezza, taceva le parole premeditate che aveva ritenuto indispensabili alla piena realizzazione del suo desiderio. In ogni momento, al fondo di se stessa, una vergine timida e supplichevole implorava e respingeva un soldataccio rozzo e prepotente. «Sì, senz'altro, è probabile che ci guardino a quest'ora, in questa campagna tanto frequentata», disse ironicamente l'amica. «E poi cosa?» aggiunse, sentendosi il dovere di accompagnare con una strizzatina d'occhi maliziosa e tenera quelle parole che recitava per bontà, come un testo che sapeva gradito a Mademoiselle Vanthei, in un tono che si sforzava di rendere cinico. «Se anche ci vedessero, tanto meglio». Mademoiselle Vanthei ebbe un fremito e si alzò. Il suo cuore scrupoloso e sensibile ignorava le parole che potessero spontaneamente adattarsi alla scena che i suoi sensi reclamavano. Cercava il più lontano possibile dalla sua vera natura morale di trovare il linguaggio appropriato alla ragazza viziosa che voleva essere, ma le parole che quella, secondo lei, avrebbe pronunciato con sincerità le parevano false sulle sue labbra. E il poco che se ne concedeva era detto in un tono affettato, nel quale l'abituale timidezza paralizzava la velleità d'audacia e si mescolava a continui: Non hai freddo? Non hai troppo caldo? Non hai voglia di stare sola a leggere? Mi pare che Mademoiselle abbia dei pensieri alquanto indecenti stasera, finì col dire, ripetendo senza dubbio una frase sentita altre volte in bocca all'amica. A un tratto Mademoiselle Vinteuil sentì che l'amica le appuntava un bacio nella scollatura della camicetta di crespo. Lanciò un gridolino, fuggì, e allora le due cominciarono a inseguirsi saltellando, facendo svolazzare come ali le loro grandi maniche e chiocciando e pigolando come uccelli in amore. Poi Mademoiselle Vinteuil si lasciò cadere sul divano, ricoperta dal corpo dell'amica. Ma questa volgeva le spalle al tavolino sul quale era posato il ritratto dell'anziano professore di pianoforte. Mademoiselle Vinteuil comprese che l'amica non l'avrebbe visto se lei non vi avesse attirato la sua attenzione e le disse, come se l'avesse notato solo allora: Ah, quel ritratto di mio padre che ci guarda. Vorrei sapere chi ce l'ha messo lì. Ho detto 1.000 volte che quello non è il suo posto. Mi ricordai le stesse parole che Vinteuil aveva detto a mio padre a proposito dello spartito di musica. Senza dubbio quel ritratto doveva servire abitualmente alle due per qualche profanazione rituale, perché l'amica le rispose con queste parole che dovevano far parte delle sue risposte liturgiche. Ma lascialo dov'è? Tanto lui non è più qui a romperci le scatole. Te l'immagini se ti vedesse qui con la finestra aperta? Quella brutta scimmia, come frignerebbe per farti mettere il mantello? Mademoiselle Vinteuil rispose con parole di dolce rimprovero. Ma su, via, che dimostravano la bontà della sua natura, non perché fossero dettate dall'indignazione per quel modo di parlare di suo padre. Evidentemente era un sentimento che si era abituata a far tacere in quei momenti, con l'aiuto di quali sofismi non si sa. Ma perché erano come un freno che per non mostrarsi egoista imponeva lei stessa al piacere che l'amica cercava di procurarle. E poi forse quella moderazione sorridente nel rispondere a quelle bestemmie, quel rimprovero ipocrita e tenero, apparivano alla sua natura franca e buona una forma particolarmente infame, una forma melliflua della scelleratezza che cercava di assimilare. Ma non poté resistere all'attrazione del piacere che avrebbe provato nell'essere trattata con dolcezza da una persona così implacabile verso un morto senza difesa. Balzò sulle ginocchia dell'amica e le tese castamente la fronte da baciare, come avrebbe potuto fare se ne fosse stata la figlia, sentendo con delizia che così si stavano spingendo entrambe all'estremo della crudeltà, sottraendo a Vinteuil, perfino nella tomba, la sua paternità. L'amica le prese la testa fra le mani e le depose un bacio sulla fronte, con quella docilità che le era resa facile dal grande affetto che provava per Mademoiselle Vinteuil e dal desiderio di apportare un po' di distrazione nella vita ora così triste di un'orfana. Sai che cosa voglia di fargli a questo vecchio mostro? Disse prendendo il ritratto e sussurrò all'orecchio di Mademoiselle Vinteuil qualcosa che non potei udire. Oh no, non avresti il coraggio. Non avrei il coraggio di sputarci sopra? Su questo? Disse l'amica con deliberata brutalità. Non sentii altro, perché Mademoiselle Vinteuil, con aria stanca, goffa, indaffarata, onesta e triste, venne a chiudere le imposte e la finestra. Ma ora sapevo, per tutte le sofferenze che Vinteuil aveva sopportato in vita a causa della figlia, qual era il compenso che riceveva da lei dopo la morte? E tuttavia ho pensato in seguito che se Vinteuil avesse potuto assistere a quella scena, non avrebbe forse nemmeno allora perso la fede nel buon cuore della figlia, e forse non avrebbe avuto torto del tutto. Certo, nelle abitudini di Mademoiselle Vinteuil, l'apparenza del male Era così assoluta che sarebbe stato difficile vederla realizzata in quel grado di perfezione altrove che in un essere sadico. È più facile che sia dato vedere sotto le luci della ribalta di un teatro di boulevard che non sotto il lume di un'autentica dimora di campagna. Una ragazza indurre un'amica a sputare sul ritratto di un padre che ha vissuto soltanto per lei. E non c'è che il sadismo che possa dare un fondamento nella vita all'estetica del melodramma. Nella realtà, al di fuori dei casi di sadismo, una ragazza potrebbe venir meno alla memoria e alla volontà del padre defunto con azioni altrettanto crudeli di quelle di Mademoiselle Vinteuil, ma non le riassumerebbe espressamente in un atto di simbolismo così rudimentale, così ingenuo. Quello che di criminale avrebbe la sua condotta sarebbe più velato agli occhi degli altri e persino agli occhi di lei, che farebbe il male senza confessarlo a se stessa. Ma al di là dell'apparenza, nel cuore di Mademoiselle Vinteuil, il male, almeno all'inizio, non fu forse senza ambiguità. Una sadica come lei è un'artista del male, cosa che una creatura totalmente malvagia non potrebbe essere, perché il male non le sarebbe estraneo, le sembrerebbe del tutto naturale, non si distinguerebbe nemmeno da lei. E non avendo il culto della virtù, della memoria dei morti e della tenerezza filiale, non troverebbe un piacere sacrilego nel profanarlo. I sadici della specie di Mademoiselle Vinteuil sono esseri così puramente sentimentali, così naturalmente virtuosi, che perfino il piacere dei sensi sembra loro qualcosa di malvagio, il privilegio dei cattivi. E quando concedono a se stessi di indulgervi per un momento, è nella pelle dei cattivi che si sforzano di entrare e di far entrare il loro complice, così da avere per un istante l'illusione di essere evasi dalla loro anima scrupolosa e tenera e di entrare nel mondo inumano del piacere. E capivo quanto l'avrebbe desiderato, vedendo come le fosse impossibile riuscirci. Nel momento in cui lei si voleva così diversa dal padre, mi ricordava invece proprio i modi di pensare, di dire del vecchio professore di piano. Molto più della fotografia del padre, ciò che lei profanava, ciò che asserviva ai suoi piaceri, ma che restava tra lei e loro, impedendole di gustarli direttamente, era la somiglianza del suo viso, gli occhi azzurri della nonna paterna che lui le aveva trasmesso come un gioiello di famiglia, quei gesti di amabilità che interponevano fra Mademoiselle Vinteuil e il suo vizio una fraseologia, una mentalità che non erano fatte per il vizio e che le impedivano di conoscerlo come qualcosa di molto diverso dai numerosi doveri di cortesia a cui si consacrava abitualmente. Non era il male a darle l'idea del piacere, a sembrarle attraente, era il piacere a sembrarle perverso. E siccome ogni volta che vi si abbandonava, si accompagnava per lei a quei pensieri depravati che il resto del tempo erano assenti dal suo animo virtuoso, finiva per trovare nel piacere qualcosa di diabolico e per identificarlo con il male. Forse Mademoiselle Vinteuil avvertiva che al fondo la sua amica non era cattiva e che non era sincera quando le faceva quei discorsi blasfemi. Almeno aveva il piacere di baciare sul suo volto dei sorrisi, degli sguardi, magari finti, ma analoghi nella loro espressione viziosa e abietta a quelli che avrebbe potuto trovare non in un essere di bontà e di sofferenza, ma di crudeltà e di piacere. Per un istante poteva immaginare di fare seriamente i giochi che avrebbe fatto con una complice così snaturata. Una figlia che avesse provato veramente quei barbari sentimenti verso la memoria del padre. Forse non avrebbe ritenuto il male uno stato così raro, così straordinario, così alienante, dove era così riposante emigrare, se avesse saputo discernere in se stessa, come negli altri, quell'indifferenza alle sofferenze che provochiamo e che comunque la si voglia chiamare, è la forma terribile e permanente della crudeltà.